Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 € al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info. Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Pietro Liberati di Trent Film per presentare Stitches, un legame privato di Miroslav Terzic al cinema da giovedì 13 maggio 2021. Ben trovato. Grazie dell'invito. Che storia è questa? Stitches racconta la storia di Ana, una sarta di Belgrado che è alla ricerca del figlio scomparso. E non si tratta di un figlio scomparso improvvisamente o altro, ma è alla ricerca di questo bambino da molti anni, poiché è stato dichiarato morto alla nascita, però l'ospedale non le ha mai restituito il corpo né le ha indicato alcun luogo di sepoltura, quindi Ana è da molti anni che cerca questo bambino che nel frattempo nella sua testa è diventato grande. Che storia ha avuto questo film? Questo film è stato presentato inizialmente al Festival di Berlino nella sezione Panorama. In questa sede ha vinto l'Europa Cinema Label, che è un premio molto prestigioso, che viene assegnato appunto a dei film di produzione europea nei più grandi festival europei appunto. Poi è passato in diversi altri festival in giro per il mondo, dove ha vinto parecchi premi, che sono andati a premiare soprattutto l'interpretazione della protagonista Ana, un'attrice dal nome Snezana Bogdanovic, e la sceneggiatura, che è ad opera di Elma Tataragic, che abbiamo già conosciuto in Italia per il suo lavoro con Dio e Donne, si chiama Petrunia, un film che nel circuito del sé ha avuto una certa risonanza. Cosa hai apprezzato maggiormente dell'opera? Sicuramente la figura di Ana è una figura straordinaria, perché grazie anche all'interpretazione e allo scavo psicologico operato su questa mente di questa sarta di Belgrado, lo spettatore facilmente riesce a immedesimarsi e a finire per provare alcune sensazioni, emozioni che magari lo possono ricondurre al suo privato. Va detto che la storia di Ana è ispirata a una storia vera, la storia di una sarta, appunto Drinka Radonic, che ormai 20 anni fa ha vissuto la vicenda della ricerca di suo figlio, che le hanno dichiarato morto, ma lei non ha mai smesso di cercare, e alla fine lei dopo molti anni ha ottenuto qualcosa. Nel sottofinale si legge che queste vicende riguardano circa 500 bambini. Che storia è questa? Sì, è una storia che ha avuto diversi risvolti anche legali, che hanno portato la Serbia all'attenzione internazionale, perché sostanzialmente la Serbia non ha riconosciuto una certa colpa delle istituzioni o un coinvolgimento nella vicenda di questi neonati scomparsi, ma ha offerto altresì un indennizzo alle famiglie di questi neonati, che chiaramente le famiglie non hanno accettato, perché invece che ammettere che c'era una responsabilità hanno solo avuto un'offerta di indennizzo di poche migliaia di euro. È una vicenda legata ad affari comunque. Sì, in realtà anche nel film si intravede che c'è una coltre di silenzio che nasconde una connivenza di varie istituzioni. C'è l'istituzione proprio dello Stato, c'è il comune, la polizia, gli ospedali. Sembra tutto partecipare a questa coltre di menzogna che avvolge la vicenda. Che uscita sarà? Usciremo inizialmente nelle grandi città, soprattutto a Milano, usciremo in 4 situazioni, a Roma in altre 2 situazioni, e dopo speriamo di allargarci e di partecipare alle arene estive con questo film, anche perché diversamente da alcuni titoli che in questo momento stanno circolando sugli schermi italiani, Stitches, un legame privato, sarà proposto solo in sala inizialmente, sicuramente fino all'autunno. Ci dai dei riferimenti web per maggiori dettagli? Potete visitare il nostro sito internet www.trentfilm.it oppure la nostra pagina Facebook facebook.com/trentfilmit. Stichis, un legame privato di Miroslav Terzic al cinema da giovedì 13 maggio 2021. Un saluto e un ringraziamento a Pietro Liberati di Trent Film che lo distribuisce. Un in bocca al lupo e a risentirci presto. Viva il lupo, grazie, grazie a voi. Con Alberto Fastina di Partenos Distribuzione per presentare il film Gloria Mundi di Robert Guédiguian al cinema da giovedì 13 maggio 2021. Ben trovato. Buonasera, buonasera o buongiorno a tutti. Salve. Raccontiamo brevemente questa storia. Intanto diciamo che Gloria Mundi è il film che arriva dopo il grande successo della Casa sul mare e ritorna un po' sempre alla formula alla quale ci ha abituato Guédiguian, cioè comunque di un film corale con spesso, anzi quasi sempre, gli stessi interpreti, una su tutte ad esempio Arianna Scarib, che è la sua musa nonché sua attrice di sempre, nonché sua moglie. Arianna Scarib, che per questo film ha vinto la Coppa Volpi al Festival di Venezia ormai quasi 2 anni fa, e il film si muove sempre un po' nel mondo al quale ci ha abituato Guédiguian, quindi siamo a Marsiglia in un contesto proletario, insomma, di persone normali che hanno i loro lavori, i loro problemi soprattutto. E rispetto al film precedente, diciamo che è un film, come mi ricordo Alberto Barbera presentandolo a Venezia, l'ha detto, è un film un po' più pessimista, no? Però allo stesso tempo Guédiguian, che apre il film con una scena pazzesca, incredibile, di una nascita vera, nel senso che c'è proprio la scena di un parto, invece dice sì, è un film negativo, negativo, diciamo pessimista, però anche l'idea di cominciare con una nuova vita è anche un modo per ricordarsi poi dopo che la vita va avanti, insomma, nonostante tutto. Cosa ti ha convinto maggiormente? Questo film convince il fatto che credi sempre alle storie che questo regista ti racconta, cioè senti che sono un po' come, se vogliamo, Ken Loach, insomma, in versione francese, in versione marsigliese, chiamiamola come vogliamo, cioè qualsiasi storia che questi registi impegnati anche nel sociale, insomma, raccontarti storie legate a questo mondo, insomma, che fanno pochissimi film in costume, raccontano proprio il tempo nostro, insomma, mi convince che è qualcosa che mi parla dell'adesso, e soprattutto c'è questa cosa che è particolare e anche un po' profonda in qualche modo, in cui c'è uno scontro tra le generazioni, dove tendenzialmente la generazione dei giovani non è che proprio venga raccontata positivamente, insomma, ne vengono quasi sottolineati più i difetti, ma cerco di spiegarmi meglio, nel senso che la generazione di chi adesso si affaccia nel mondo del lavoro, i 20, 30 anni, insomma, cioè affrontano delle difficoltà maggiori probabilmente della generazione precedente, della generazione di Guédiguian, insomma, che in qualche modo è il padre degli attori giovani di questo film. E siccome le difficoltà sono maggiori, a volte anche il modo per venirne fuori può essere un po' più discutibile, ecco. E quindi è interessante un po' dire che forse il mondo che è andato avanti, nonostante un certo tipo di lotte importanti che sono state fatte, sì, poi ha prodotto delle storture, insomma, per cui ad esempio vedere questi ragazzi cinici che pur di mettere un soldo in tasca in più o di coltivarsi un pezzettino di futuro in più magari sono disposti a cose un po' discutibili, secondo me è un punto di vista interessante che ci parla di qualcosa che effettivamente accade, può accadere. Che tu sappia, nei paesi in cui è uscito che riscontri ha avuto? Questo film fondamentalmente è stato presentato a Venezia nel settembre 2019, la pandemia è arrivata nel febbraio-marzo 2020, per cui penso che abbia fatto in tempo a uscire in Francia, perché deve essere uscito a novembre, e sempre Guédiguian è un po' come Almodóvar in Spagna, Loach in Inghilterra, cioè al suo zoccolo di spettatori del cinema di qualità, quindi in Francia naturalmente è andato bene, insomma gioca in casa, un autore conosciuto come Nanni Moretti da noi. Poi tutto si è bloccato. Parlavo l'altro giorno per dire con Filippo Meneghetti che presentava Due, ascoltavo le interviste, diceva che quel film lì lui l'ha portato in giro, poi dopo la vita di quel film si è bloccata per poi adesso riprendersi. Penso che con Gloria Mundi sia successo un po' la stessa cosa, e infatti in Italia arriva soltanto adesso dopo almeno 2 tentativi di uscita. Era un film che era pronto per la primavera scorsa, era pronto per l'autunno scorso, e quindi queste chiusure, diciamo, hanno fatto sì che faccio fatica un po' a rispondere a questa domanda. Che tipo di uscita sarà? come siamo abituati, come noi di Partenos, di qualità stretta, cioè quindi dei locali abituati appunto al cinema d'essai, comunque usciremo in 20-25 copie. Soprattutto ti segnalo questa cosa: venerdì 14 ci sarà un collegamento satellitare per le sale che proiettano il film e che hanno voglia di partecipare a questa cosa, insomma, in diretta con Robert Guédiguian e Arianna Scarid nella loro casa, intervistati da Paolo Mereghetti alle 19.30, per cui in tutte le sale dove è prevista la programmazione venerdì di Gloria Mundi alle 19.30 il pubblico potrà godere di questa presentazione molto speciale e soprattutto molto in linea con i tempi di adesso, cioè quelli del fatto che l'incontro con il pubblico è sempre più difficile e ci sono delle altre forme. L'altra volta con Partenos avevamo, mi ricordo, insomma, portato Robert Guédiguian a presentare il film in diverse sale in presenza. Quest'anno avremmo voluto fare altrettanto, ma insomma è tutto più difficile, soprattutto con un ospite straniero, con gli aerei, i treni e tutto quanto. Per cui ci sarà però allo stesso tempo questa presentazione speciale venerdì 14 maggio alle 19.30 nei cinema che proietteranno il film. Gloria Mundi di Robert Guédiguian al cinema da giovedì 13 maggio 2021. Un saluto e un ringraziamento ad Alberto Fassina di Partenos Distribuzione. Un in bocca al lupo e a presto. A presto, grazie. Con Maura Del Pero, regista del film Maternal, al cinema da giovedì 13 maggio 2021. Ben trovata! Ciao, ben ritrovato! Che storia è questa? È la storia di un luogo, in realtà. Un luogo strano, chiuso, in cui sono contenute tante emozioni portate da delle donne apparentemente molto diverse che convivono. Sono delle madri adolescenti con i loro figli e delle suore che si occupano di loro. Apparentemente due tipi di donne che difficilmente si incontrerebbero sullo stesso cammino, invece la vita le ha portate a stare appunto chiuse in questo luogo insieme, e questa convivenza porta ovviamente a una serie di influenze reciproche, che era forse quello che a me più interessava, cioè non solo il fatto che normalmente si pensa che in qualche modo gli educatori o quelli che si occupano di sono quelli che più influenzano le persone seguite, e in questo caso è reciproco, questo sembrava interessantissimo. Come era partito tutto? Da un mio desiderio di approfondire la questione della maternità, di metterla al centro di un film e di farlo senza sconti, no? Un po' lontano dalla retorica felice. Si parla troppo poco di maternità e si tende a edulcorare. Poi mi ritrovavo a parlare con le mie amiche, e invece la maternità è una questione molto complessa che entra in maniera prepotente nella vita delle donne, in maniera meravigliosa e terribile. E quindi sentivo che quella era la questione centrale. Come poi è stata impersonificata, è nato da degli aneddoti. Cioè, io sono anche insegnante, nella mia classe è rimasta incinta una ragazzina, e questo a me, insomma, mi ha toccato profondamente, anche perché ho potuto seguire tutto l'anno scolastico questa ragazzina che continuava a crescere, e nel frattempo cresceva la madre in lei e questo figlio così precoce. Quindi è stata una questione che mi ha interrogato, e ho in qualche modo sentito che in quella maternità estrema c'era, se vuoi, anche la scusa per raccontare le contraddizioni che appartengono a tutte le maternità. Poi sono una che fa molta ricerca, anche quando fai film di finzione, e sono andata a infilarmi in un hogar che è questo centro. In Italia non esistono, in Argentina ce ne sono vari, sono dei centri di accoglienza per madri adolescenti. Ci sono entrata portando io qualcosa, facendo i laboratori di cinema per le ragazze, che è stata un'esperienza bella di per sé, umanamente, che insomma ideologicamente, politicamente, che mi ha permesso di accedere profondamente alla loro intimità, e quindi poi di raccontare una storia che è completamente di finzione, ma ha assorbito moltissima realtà. Proprio a questo proposito, che impressioni ne hai ricavato da questa esperienza? Moltissime, diversificate, forse un po' impossibile da sintetizzare, o forse in qualche modo, guarda, sono contenta di averci fatto un film, perché l'immagine è polisemica, è stratificata, no? È sintetica, ha un potere per cui soprattutto un certo tipo di cinema riesce attraverso un'immagine a raccontare più cose insieme, anche a seconda di chi la guarda, l'immagine, no? Della realtà dello spettatore che guarda, di come la risignifica, di che tipo di connessione riesce ad avere con l'immagine. Sono realtà molto complesse e molto importanti, perché poi effettivamente sono da una parte realtà di contenimento, dall'altra anche di formazione, perché l'idea è quella comunque di seguire le ragazze e di aiutarle con i bambini e permettere loro di continuare a formarsi, chi di finire la scuola, chi di prepararsi a un lavoro e ritornare nel mondo in una situazione un po' meno vulnerabile. Dopodiché quello che a me sta molto a cuore e che effettivamente ho trovato è stato il fatto che queste persone in una situazione molto complessa riescono a difendere molto la loro dignità, che è una cosa che a me sta molto a cuore, mi commuove molto, e ho cercato di portare questo nel film. Sono tutte donne con la schiena dritta, situazioni complicatissime, però fino adesso gli spettatori e soprattutto le spettatrici ci sono una grande empatia, perché poi alla fine c'è molta umanità nel film, c'è una situazione molto particolare, però ci sono questioni universali che la attraversano. È un progetto elaborato che ha richiesto tempo. Moltissimo. Da una parte bene, nel senso che mi sono preso tanto tempo per scriverlo, prima ancora per fare un sacco di ricerca, per scriverlo, per trovare le attrici giuste, le persone giuste, perché alla fine la scelta di fare un cast neorealista significa anche, cioè misto, diciamo, significa anche andare a cercarsi le persone in luoghi dove normalmente non le troveresti, no? Cioè non è semplicemente un casting in cui si presentano gli attori. Sono andata proprio nei luoghi a cercarmi le ragazze che potessero portare la verità al cinema. Però poi ovviamente dopo invece in realtà ci sono una serie di ritardi che invece ho semplicemente subito, perché finanziare un'opera prima di finzione tra l'Italia e l'Argentina, insomma, è un'esperienza in sé, quindi ci ha voluto proprio tanto tempo. In quante sale? Sai che non lo so, anche sono cambiati i numeri, perché questa, devi sapere che è la terza volta che proviamo a uscire in Italia, il Covid ci ha fatto impazzire, quindi ogni volta poi cambiano i dati, le cose, e credo parecchie, però non saprei dirti, credo a Roma siano 4, noi l'abbiamo presentato domenica mattina a Roma a 4 Fontane, e io sono in partenza per Milano per presentarlo all'Anteo, poi lo presento a Torino, a Bologna, a Reggio, a Padova, a Udine, e speriamo di tornare a ripresentarlo a Roma la prossima settimana, ma sai, sono riaperti i cinema e alla fine insomma mi metto ok, riusciamo a uscire, però è tutto un po' così, no? Cercare di stare sul pezzo nonostante il Covid abbia richiesto una flessibilità enorme. Il film Maternal al cinema da giovedì 13 maggio 2021, un saluto e un ringraziamento alla regista Maura Del Pero. Un in bocca al lupo e a risentirci presto. Grazie mille Federico. Con Anastasia Plazzotta di Wanted Cinema, che distribuisce il film Corpus Christi di Janko Maasa al cinema da giovedì 6 maggio 2021. Ben trovata! Ciao, ciao a tutti, grazie! Raccontiamolo brevemente. Innanzitutto sono molto felice di essere di nuovo qui, è un po' che non ci sentiamo. Sì. L'occasione è graditissima perché questo è il nostro film un po' della ripartenza, della rinascita, non potevamo scegliere un titolo migliore perché proprio c'è la resurrezione, la storia di questo ragazzo che da un riformatorio, perché in qualche modo vedendo che il riformatorio si è comportato bene e quindi viene mandato in questa falegnameria per riabilitarsi in qualche modo. Lui però durante il suo percorso dentro il carcere si è avvicinato alla fede e dentro di sé vorrebbe veramente cambiare, e lungo il percorso verso la falegnameria si imbatte, diciamo così, in una chiesetta, si infila dentro per varie vicissitudini che non lo sto a dire nel dettaglio, perché se no ti svelo troppo, infatti sto andando troppo nel dettaglio forse, viene scambiato per un parroco e comincia quindi la sua vita in questo piccolo villaggio dove, fingendosi parroco, perché questa cosa continua, deve sostituire il parroco del luogo e comincia a fare le sue omelie e in qualche modo a lasciare un segno in una comunità che vedremo essere ferita da un grave incidente, non vi dico troppo, insomma la parola è una storia di redenzione, o meglio sì o no. C'è modo di riscattarsi dal proprio passato? Chi si è macchiato col peccato può riscattarsi? Oppure, altre domande che solleva un po' il film, siamo capaci di compassione vera verso gli altri? E questa cosa del giudizio, no? Che continua a tornare, quelle colpe, il giudizio, il perdono, qual è il ruolo del perdono? Insomma, è molto interessante, secondo me, per questo, perché non è un film che ti lascia indifferente ed è sempre molto dinamico, in qualche modo è un action movie, ed è bello, pieno di spunti di riflessione, molto godibile. Il protagonista principale è bravissimo, il regista anche giovane, non esordiente, credo questo fosse il suo secondo film, mi sembra talentuosissimo, infatti nel frattempo ne ha fatto pure un altro. una bella scoperta, secondo me, che tutti spero farete prima possibile, perché il film esce il 6 maggio. Che sorti ha avuto in giro per il mondo, che tu sappia? Ha avuto un percorso brillantissimo, nel senso che ha raccolto dei premi pazzeschi nel proprio paese, cioè uno dei cinque premiati di Bologna dell'anno scorso sicuramente, ma anche di tutti i tempi. Ha raccolto tantissimi successi, non solo a livello di critica, ha anche sbancato il botteghino in tempi pre-pandemici, perché il film è stato presentato a Venezia nel 2019 ed è uscito subito dopo in Polonia facendo un grandissimo successo, o contemporaneamente, insomma, nello stesso anno comunque. Poi da lì, e noi appunto l'abbiamo acquisito, stiamo aspettando da un anno il momento giusto per distribuirlo. Nel mondo ha raccolto il premio più importante, in qualche modo una candidatura all'Oscar come miglior film straniero del 2020, era nella cinquina, quindi è riuscito ad essere concorrente di Parasite, che poi ovviamente ha vinto, ma insomma essere nella cinquina dell'Oscar miglior film straniero non è male, anche perché con un film indipendente è una bella conquista, e via discorrendo, premi, è stato distribuito ovunque, anche grazie alla candidatura all'Oscar, che sicuramente gli ha dato una visibilità internazionale non da poco. Che tipo di distribuzione farete? Siamo con 33 copie, come gli anni di Cristo, come dice la nostra anche commerciale, e vediamo cosa ci porterà. Abbiamo tante sale anche nuove rispetto al nostro solito, non so, su Roma siamo anche all'Eden, oltre che al Madison e al Nuovo Aquila, che sono sale diciamo per noi più tradizionali. Poi a Milano siamo ovunque, anche tantissime sale nuove, come il Brido Centrale, il Colosseo, insomma queste 33 sale sono sparse in tutta Italia, col solito problema del sud, in questo periodo in particolare, peraltro la maggior parte delle sale sono ancora chiuse, in una città come Napoli c'è una sala aperta, per dirvi, quindi insomma non è semplice, un film che in tempi normali avrebbe avuto il doppio delle sale, però insomma ci accontentiamo di queste 33. Più in generale, come vi trova questa ripartenza? Abbiamo dovuto crederci e giocarci anche quello che per noi è un asso importante. Questo è un film che abbiamo preservato, nonostante, come dicessi, è una posizione del fine 2019. Abbiamo aspettato tutto il 2020, abbiamo rinunciato a fare un'uscita a piattaforma. L'avevamo preparato benissimo perché doveva uscire a fine ottobre, quando c'è stato il secondo lockdown, e quindi abbiamo detto proviamoci, abbiamo deciso questa data appena ci hanno comunicato che il 26 aprile sarebbero aperte le sale, e vediamo, c'è l'andamento medio, nel senso che comunque la gente piano piano sta tornando, ovviamente le sale hanno il 50% della capienza, quindi non è semplice, ma sì, dai, speriamo anche che scateniate tutti questa parola, perché come sempre è la cosa più efficace, al di là di tutto quello che stiamo facendo noi a livello promozionale, investimenti e tutto. Abbiamo deciso di crederci, stiamo pure investendo sulla promozione, sui social, sulla qualunque, quindi vediamo, è una ripartenza speranzosa. Il film Corpus Christi di Jan Komasa al cinema da giovedì 6 maggio 2021. Un saluto e un ringraziamento ad Anastasia Lazzotta di Wanted Cinema, che lo distribuisce. Un in bocca al lupo e a presto! Grazie mille! Con Stefano Guerini Rocco per presentare l'ottava edizione del Festival Orlando a Bergamo dal 14 al 23 maggio 2021. Ben trovato. Buongiorno Federico, buongiorno anche alle ascoltatrici e ascoltatori. Ricordiamo e spieghiamo cos'è Orlando. È un festival di cinema, teatro, danza, incontri, festival internazionale a tematica queer, alla sua ottava edizione dopo un anno sicuramente non facile per tutti, ma in particolare per Bergamo, dove l'impatto emotivo e psicologico della pandemia si è fatto sentire molto forte e da subito. Noi abbiamo deciso di rimanere, in realtà anche l'anno scorso, con tutte le difficoltà del caso, abbiamo trovato delle forme per esserci, per confermare la nostra presenza a Bergamo, ma quest'anno siamo felici, anche con i cinema aperti, di poter ripartire, appunto, e ripartiamo dal cinema, cioè da quella parte di festival che più era stata penalizzata e mortificata dalle restrizioni di quella che nel nostro recupero doveva essere secondo atto di Orlando, invece poi è stato fermato

la malattia, insomma, chi con speranza, chi con sconforto. Come era partito il progetto? Io sono già reduce da un precedente film sempre sulla tematica oncologica e quindi non dico che è una sorta di sequel, di seguito, ma abbiamo continuato su questa scia perché il precedente film è andato abbastanza bene e quindi insomma anche per delle richieste, ecco, di continuare ad affrontare questa tematica ho scritto la sceneggiatura incentrandola meno dal punto di vista medico e più proprio dal punto di vista dei pazienti. La differenza però del primo film, che era un film di finzione, quindi insomma tutto basato su scene recitate da attori, questo appunto è un docufilm, quindi come accennavo prima le scene di finzione di attori si alternano con testimonianze reali. Abbiamo poi anche la testimonianza insomma di un personaggio abbastanza importante che è Piero Angela, che insomma interviene in 3 passaggi del film e quindi insomma ci ha onorato, ecco, anche avere insomma la sua presenza. E poi tra gli altri c'è anche il dottor Massimo Di Maio, capo dipartimento dell'ospedale Mauriziano di Torino. Qual è il ruolo delle associazioni di volontariato? Noi abbiamo la partnership della FAVO a Roma, che è l'associazione delle associazioni, ecco. La FAVO ha sposato a livello promozionale, ecco, con il loro ufficio stampa il progetto. All'interno del film notiamo più il rapporto tra medico e paziente che tra volontario e paziente, anche se però ci sono un paio di scene dove vediamo anche questo aspetto, ecco, dove insomma per esempio c'è la scena di un clown, insomma un volontario che adotta la classica clown therapy, che si rapporta con uno dei pazienti. Quindi il film si tocca il volontariato, ma in realtà tocca tantissime corde, tocca il disagio anche dei medici, disagio nel senso che anche loro in alcune situazioni hanno bisogno di confrontarsi, di parlare, tocca la malattia vissuta in modo indiretto da parte di un caro, di un paziente, perché di solito chi magari, che so, il marito di una persona che subisce il cancro lo subisce ancora di più, anche se non lo vive proprio sulla sua pelle a livello fisico, però percepisce molto il dolore. Poi c'è anche un'altra componente importante a livello narrativo, è lo sport, quindi superare il periodo della malattia facendo sport, l'alimentazione sana. L'aspetto medico è rappresentato da un medico oncologo che interpreto io e da una farmacista specializzata in campo oncologico, ma entrambi queste figure, più che con l'aspetto medico classico nell'interfacciarsi con i pazienti, si rapportano con loro con uno spirito, con una sensibilità amichevole che spesso si riconosce molto nel volontariato. Non dico che sono due volontari, però comunque lo spirito è quello della vicinanza ai pazienti, di farli sentire a casa, a proprio agio, di comprendere la loro paura, ecco, anche le loro preoccupazioni, insomma. Qual è lo stato oggi rispetto alla malattia oncologica in Italia? Beh, oggi ci sono sicuramente tante iniziative, tante associazioni appunto di volontariato che sono vicini ai pazienti. Se c'è una ricerca a livello scientifico sicuramente che si aggiorna di continuo, ci sono tante raccolte, fondi, come vediamo anche nelle TV, insomma, tipo adesso Teleton a livello nazionale, i ricercatori lavorano sempre. Ho come la sensazione che si muore meno, perché oggi insomma si può anche convivere tra virgolette con la malattia, si gestisce, ecco, però ci si ammala anche tanto, tanto di più. Però è anche vero che si guarisce anche di più. Tante malattie oncologiche che fino a 20 anni fa non davano scampo tempo, ecco, ad oggi insomma con studi, con chemioterapie mirate, si riesce a gestire e in tanti casi si guarisce anche. Il film affronta molto l'aspetto della guarigione, purtroppo si vedono anche personaggi che non ce la fanno, perché poi purtroppo insomma sarebbe troppo bello che tutti sopravvivano alla malattia, però il film ha anche questo aspetto di positività, di speranza, poi lo dice appunto il titolo stesso, i luoghi della speranza, che sono quei luoghi dettati appunto da un conforto che il medico protagonista, ma anche questa farmacista che è interpretata da Cosima Coppola, cercano di trasmettere non solo a chi vive il cancro, ma anche appunto alle persone che stanno accanto a chi subisce la malattia, quindi parenti, amici, persone care, ecco. I luoghi della speranza, online da giovedì 13 maggio 2021, un saluto e un ringraziamento al regista Enzo Dino. Un in bocca al lupo, a risentirci presto. Crepi il lupo, grazie a voi, buona continuazione. Grazie mille, un saluto a tutti. Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste e l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.